tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'Italia azzurra si lecca le ferite e riflette sul proprio futuro. Il colpo subito in Sudafrica, quel doppio KO ravvicinato da Egitto e Brasile, è stato di quelli che oggettivamente tramortiscono. Ora si tratta di capire da dove ripartire, e fermo restando che per sua stessa missione, è stato lui il primo a dirlo, questo è il momento più difficile che Lippi abbia attraversato nella sua doppia avventura azzurra, e anche di questo bisogna tenere conto. Allora, oggi ascoltiamo, poi avremo tanti altri argomenti di cui parlare, ma partiamo proprio dalle riflessioni e delle valutazioni complessive che Lippi ha fatto di questa avventura e da una sua diagnosi, dal suo punto di vista sullo stato del calcio italiano. Io ho tratto valutazioni, ho visto tutto quello che dovevo vedere e ho preso atto, perché questo è stato un momento di lavoro nel periodo di costruzione, ma lo dico dopo questo, non durante. E dopo non ti dico neanche Tizio, Caio e Sempronio, però ho visto e ho verificato che è tutto quello che mi interessava vedere. Le valutazioni che ho fatto, delle quali ho parlato io, non sono rivolte soltanto al gruppo dei vecchi, anche al gruppo degli altri, perché non è che bisogna fare valutazioni solo nel gruppo dei vecchi, anche nel gruppo degli altri. E io adesso ho le idee un pochino più chiare anche su alcuni giocatori dell'altro gruppo. Siamo con la consapevolezza di aver fatto male e di questo naturalmente siamo dispiaciuti più di tutti noi, perché prima di tutto noi quello che facciamo lo facciamo per noi stessi come soddisfazione professionale, perché chi lavora prima di tutto lo fa per se stesso, per provare determinate sensazioni, perché quella è la cosa più bella, e perciò prima di tutto siamo dispiaciuti noi, però ci siamo anche schiariti le idee, io personalmente mi sono schiarito le idee. Questo era il primo di una serie di frammenti di Lippi che ascoltiamo proprio per riflettere, per valutare, per condividere o meno. Ovvio che ci sarà spazio poi per i vostri interventi e per le vostre opinioni. Nel frattempo è arrivata una notizia non più di mezz'ora fa, assolutamente in attesa, che è il divorzio tra il Bari e Antonio Conte. Se ricorderete, c'era stata una lunga querela tra il tecnico della società dopo la promozione in Serie A, perché Conte era uno dei candidati per la panchina della Juventus. Conte aveva detto molto chiaro che se la Juventus lo avesse cercato non c'era corsa e avrebbe lasciato il Bari. Poi invece la Juve ha fatto scelte diverse e i rapporti tra il Bari e Antonio Conte erano tornati normali. Adesso questa agenzia che arriva da Bari parla di una improvvisa rottura tra il Bari e il tecnico Conte. C'è già un comunicato del Bari che informa che società e tecnico hanno deciso di non proseguire il rapporto, e questo annuncio, che è giunto in maniera molto, molto inattesa, è probabilmente dovuto, questa è la prima spiegazione che l'ANSA tenta, a divergenze tra dirigenti e allenatore sull'impostazione del mercato, su acquisti e cessioni. Proseguiamo con Lippi, che si sofferma invece adesso, in questo secondo frammento, sull'immagine del calcio italiano. Allora, a livello di calcio nazionale, che coinvolge gli addetti ai lavori, intesi come giocatori, allenatori, dirigenti, giornalisti, media, insomma in generale, leggere ogni giorno sui giornali che va via Kakà, che va via, che Pirlo è cedibile, che Maicon e Ibrahimovic possono andare via, non è una bella cosa nei confronti del calcio italiano, non è che dà la sensazione di ricchezza, diciamo così, che abbiamo sempre avuto. Dà invece una sensazione, solo una sensazione, di ridimensionamento, e certo che non è una bella cosa. Nel momento in cui poi la nazionale, che abbiamo sempre detto che è la vera espressione del calcio nazionale, attraversa un momento un po' difficile, certamente questo dà un'immagine non molto bella, non entusiasmante del nostro calcio, no? All'interno di tutto questo, io per quello che riguarda però il mio settore, vi faccio una domanda. Voi pensavate che la nazionale italiana era... È chiaro, evidente che non pensavate questo, ma ve la faccio lo stesso la domanda, perché fra una cosa e l'altra c'è una via di mezzo sempre, no? Non è che pensavate che l'Italia vince il mondiale, poi dopo viene qua, vince la Confederation Cup, poi nel 2010 torna qua, rivince un'altra volta, no? E si passa anche attraverso dei ridimensionamenti, no? E questo, insomma, questa è una riflessione che si può si può fare, che mi sembra ampiamente legittima. Poi c'è modo e modo di perdere e di essere dimensionati. Ci sono molte analisi sui quotidiani di oggi e la più interessante, non lo dico per spirito di bandiera, l'ho letta su Sole 24 Ore, che ha affidato ad alcuni consulenti aziendali di grido un'analisi, una valutazione di Lippi dal punto di vista del management, e cioè se era chiara o meno la strategia che ha portato Lippi prima a lanciare, ricorderete, in un amichevole a Pisa sul cammino già per il Sudafrica, a lanciare alcuni giovani che forse nemmeno si aspettavano di debuttare in nazionale, che comunque diedero una sensazione molto positiva di freschezza al di là del risultato e al di là di un avversario certamente non di primissimo livello, e poi invece questa marcia indietro che l'ha fatto arroccare in Sudafrica sulle posizioni dei vecchi. Ecco, questo ha un pochino sconcertato, anzi un po' più di un pochino sconcertato, questi manager di cui vi dicevo. Per esempio Stefano Napoletano, partner di McKinsey, leggo in questo servizio del Sole firmato da Cristina Casadei, dice che è tempo di riflessioni che devono comprendere n variabili su cui lavorare, perché la sconfitta dell'Italia non è stato solo un problema di mix tra giovani e senatori. I problemi della nazionale, ha osservato Napoletano, riflettono in parte quelli dell'intero sistema italiano. Si fatica a tirare fuori talenti maturi in grado di garantire performance di alto livello per tanti anni e la spettacolarità del nostro calcio si sta deteriorando con un sistema economico sottostante che continua a soffrire. Questo è un quadro globale certamente non molto positivo. Napoletano conclude, ai tempi della vittoria del 2006 Lippi aveva vinto lavorando soprattutto sulla leva motivazionale. Il risultato che ha ottenuto è stato anche il frutto della presenza di squadra e dei giocatori carismatici che lo avevano aiutato a costruire un equilibrio complessivo, tenendo però presente quel punto di partenza, quello motivazionale. Adesso risentiamo Lippi, poi vi leggo un altro illustre parere in questa chiave. Lippi, a proposito dell'inserimento dei giovani. Voi parlate di giubilazione, che non è come fucilazione, è giubilazione di tanti giocatori anziani. Anziani, insomma, di quelli veterani. Io dico che con quelli in condizione atletica e di conseguenza psicologica buone, noi abbiamo anche un altro tipo di approccio alla partita. Se invece cambi, non c'è ancora probabilmente quella personalità e quella possibilità, quell'abilità nel fare certi tipi di cose. Dico, non pensate che i giovani possano risolvere immediatamente le cose, intendo questo, non è che non dico che, cioè, tant'è vero che ho detto più di una volta, mi pare tantissime volte, ho detto che ci sono alcuni giocatori nell'Under 21 che sicuramente faranno al caso nostro dopo gli europei, l'ho detto tante volte. Perciò guardate un po' cosa fa il grande Alex Ferguson con i giovani, li inserisce uno o due alla volta, una partita, due partite, poi li leva e giocano sempre gli scorsi, giocano sempre i Giggs, giocano sempre e li porta avanti e poi dopo rigiocano e poi piano piano dopo un anno e mezzo, due sono maturi. Quello credo che sia il modo, e questo è quello che volevo fare io anche con Santon, ripeto ancora una volta, che ha già giocato due partite prima di venire qua, poi dopo avrebbe giocato se non si fosse fatto male, e piano piano continueremo il processo di inserimento. Bisogna vedere quanto piano e soprattutto chi saranno i giovani in particolare da inserire, poi sarà il campionato a dirlo, ma insomma in questo momento provare a individuarne qualcuno, provare a battezzarne qualcuno, e questo lo faremo poi domani in compagnia di Adalberto Bortolotti. Paragonando la nazionale di calcio a una corporation, leggo ancora da Sole 24 Ore di stamane, Gianfilippo Cuneo osserva come nella squadra di Lippi abbia vinto la logica della multinazionale americana. Nelle corporation, soprattutto quelle statunitensi, ha detto, ripeto, Gianfilippo Cuneo, quando un talento va via si stappa champagne perché lascia il posto libero ai senatori che sono più familiari al capo e cercano di farsi apprezzare, diversamente dalle persone più estroverse ma talvolta ingovernabili, che però hanno qualità eccezionali. Un manager che arriva da un'esperienza di successo spesso si aggrappa al vecchio direttore commerciale, al vecchio direttore marketing, che magari richiama persino dalla pensione. Ed è sbagliato, perché le persone sono anche nominalmente le stesse, ma il mondo è andato avanti. Non so se Cuneo si riferisse direttamente a Cannavaro, mi sembra che questo ritratto più o meno potrebbe coincidere, ma Cannavaro certo è uno di quelli che si sono sentiti più chiamati in causa dai discorsi di rinnovamento, tant'è vero che anche stamane a Fiumicino ha avuto una risposta abbastanza piccata, di cui poi vi darò conto. Adesso tocca a due ascoltatori che sono già in attesa. Roberto da Vicenza, per esempio, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Lei è proprio bravo. Allora, io volevo fare un parallelo tra la nazionale di Bernard e quella di Lindbergh, velocissimamente. Sì. Nel 78, nell'82 e nell'86. Allora, nel 78 Bernard aveva una nazionale eccezionale e ha introdotto tre personaggi: Cabrini, Rossi e Tardelli, la portata. E ha fatto un mondiale bellissimo, poi ha vinto l'Argentina. Nell'82, con questi personaggi e con la nazionale un po' meno forte, perché Bettega non valeva, perché Graziani non valeva Bettega, secondo me Conti non valeva Causio, ha vinto il mondiale. Nell'86 ha dovuto fare prova di gratitudine, era normale, era giusto. Adesso credo che Lippi, che non mi è simpatico, lo era molto a me e ancora di più a lei. Sì, Roberto, mi perdoni, ma la ricezione già non era buona all'inizio ed è diventata pessima nel corso dell'intervento. E quindi mi fanno cenni abbastanza disperati dalla regia di interrompere questo intervento. Era abbastanza chiaro. Ho letto però già ieri la formazione con cui l'Italia di Berzot perse nell'86 la partita chiave dei quarti di finale. L'Italia si qualificò passando il suo primo giro, si qualificò al mondiale di diritto, poi superò il primo girone e poi trovò subito negli ottavi di finale un ostacolo troppo alto allora per lei, che era la Francia di Platini. Ho letto quella formazione, c'erano quattro reduci dal mondiale dell'82, 4 su 11 non sono tanti sinceramente, quindi dato che non è che possiamo ogni giorno ricominciare sempre dallo stesso punto, il parallelo ci sta certamente, soprattutto perché si tratta di due squadre campioni del mondo ed è inevitabile che poi i combattenti reduci abbiano spazio successivamente al di là di quelli che magari possono essere i loro meriti del momento, però è anche vero che questo accadde soprattutto nel campionato europeo dell'84, cioè nella qualificazione agli europei dell'84, mentre invece poi per il mondiale messicano avvenne in misura, non dico minima, ma in misura assai più contenuta. E adesso vedremo come se la caverà invece Lippi in questa materia. Dalla provincia di Bari ha chiamato Nino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto volevo complimentarmi per la trasmissione, mi scuso per l'emozione dato che è la prima volta che partecipo in diretta. Vengo al dunque, niente, volevo solamente sapere il suo pensiero in merito alla questione Conte. Nel frattempo le espongo il mio piccolo modo di pensare. Guardi, credo che come ogni anno siamo di nuovo allo stesso punto, cioè è veramente una presa in giro. Si era iniziato a respirare un'area di cambiamento, Matarrese diceva di essersi rinnamorato della città, dei tifosi, ma come sono arrivati al dunque a parlare di mercato, Conte naturalmente ambiziosissimo come allenatore, non ha visto rispettate le sue ambizioni ed eccoci al dunque. Può darsi, Nino, che la sua sia la chiave di lettura giusta, perché in effetti visto da fuori è abbastanza inspiegabile questa rottura improvvisa. Poi lei la imputa alla società, la imputa alla società, ma definisce anche Conte ambiziosissima, perché io credo che Conte la crestina gli piace tenerla alta, su questo credo che non ci siano dubbi. Credo anche che le due parti abbiano perso troppo tempo prima, e questo non certamente per colpa del Bari, perso troppo tempo prima a decidere se continuare o meno, e non abbiano investito quel tempo per fare i programmi su cui confrontarsi e sulle cui basi decidere poi se il rapporto continuava o meno. Sicché avendo perso quel tempo, adesso quando il confronto è iniziato, evidentemente è iniziato male e si è già concluso. L'intervallo per aggiornare il traffico ci ha portato Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Dal tuo osservatorio privilegiato di Sky Sport 24, quali sono state le reazioni mondiali, le reazioni extraterritoriali rispetto a questo disastro, perché le parole poi ogni tanto bisogna anche usarle, rispetto a questo disastro azzurro in Confederation? Se parli aziendalmente, beh, certamente è un peccato, perché come chiunque, come la RAI, come noi, come chi aveva acquistato i diritti delle partite alla radio, come anche i giornali, insomma tutti da un punto di vista mediatico subiscono un impatto negativo di questo risultato. No, io parlavo di reazioni dal mondo, cioè ho visto che qualcuno è ironizzato, come magari sì, i francesi. Sì, infatti ci arrivavo, nel senso che chi invece la osserva magari dall'estero, ovviamente questo è veramente il peso dei siti e dei richiami che vengono fatti sugli altri media da parte dei siti o comunque delle versioni online dei quotidiani. C'è chi ci ha chiamato tristi. Devo dirti che la lingua italiana, che non è molto parlata nel mondo, viene rispolverata in molti casi quando si tratta di dipingere magari a tinte un po' ironiche o magari fosche le prestazioni della nazionale, quindi povera Italia, triste Italia, così sì. sono diventati il titolo per molti siti, cioè per molte versioni online di giornali stranieri. Insomma, il luogo comune in questi casi è duro a morire. Certo. Credo che tanti vocaboli italiani che vengono conosciuti e non utilizzati lo siano anche perché fanno il titolo di molti giornali a volte. E d'altra parte, quando sei campione del mondo in carica è inevitabile che certo. la tua caduta, tra l'altro fragorosa in questo caso, faccia richiamo, faccia notizia, insomma. Sì, perché prima l'aveva fatta nel tutto il mondo africano, ma soprattutto nel mondo arabo con la sconfitta contro l'Egitto, che aveva certo. un po' unito i popoli africani. Poi in realtà i paesi africani non sono così uniti, magari trovano semplicemente in queste situazioni legate al calcio un po' di amor di continente, ma insomma fondamentalmente i continenti sono tali perché comunque ci sono divisioni a volte etniche, a volte sociali, a volte territoriali, mentre invece la sconfitta contro il Brasile, che da un lato è sempre preventivabile, dall'altro ha accoppiato l'eliminazione al turno preliminare, ha fatto sì che un minimo di ironia, e soprattutto devo dire, Gigi, la cosa che fa da comune denominatore a tutto è veramente il fatto di considerare finito il ciclo dei campioni del mondo di Marcello Lippi, cioè questa squadra per la stampa internazionale è una squadra che non ha presente, non tanto che non ha futuro, che non ha nemmeno più presente. Questo indubbiamente è un dato interessante. Farei un per insomma, visto che poi bene o male sto torneo continua e passerà attraverso due semifinali forse non memorabili, almeno sulla carta, perché insomma credo che né Spagna-USA domani né Brasile-Sudafrica giovedì sera saranno due appuntamenti imperdibili, anche se il secondo, giocando il Brasile contro la squadra di casa, no? Cosa dici? Sì, no, il Brasile contro chiunque è sempre un motivo, ha sempre qualche motivo per essere visto. Contro la squadra di casa, quindi con uno stadio pieno, con credo anche un impegno moltiplicato da parte dei sudafricani per tentare un'impresa che avrebbe dell'incredibile, io penso che abbia dei motivi validi per essere vista. L'altra è effettivamente la semifinale più povera, nel senso che la Spagna è chiaramente favorita, forse nella stessa misura in cui lo è il Brasile nei confronti del Sudafrica, ma gli Stati Uniti non hanno quel carico di pathos che deriva dal fatto che il Sudafrica è la squadra di casa. Dimentichiamoci che gli Stati Uniti hanno vinto una partita. Quindi, insomma, bravo, era da lì che volevo ripartire, perché dicevo, insomma, se tutto va regolare saranno due partite non memorabili in settimana, e invece una di altissimo livello. Perché se la finale sarà come è ragionevole pensare Spagna-Brasile, potrebbe anticipare la finale del prossimo anno col permesso dell'Argentina e magari di chi nel frattempo riuscirà a issarsi a quel livello. Però noi un po' sopraffatti da questo disastro italiano abbiamo trascurato quello che contemporaneamente accadeva su quell'altro campo sudafricano che, insomma, riraccontato a distanza di un giorno e mezzo, credo comunque abbia ancora l'incredibile. Ma guarda Gigi, io non, senza voler citarsi o quant'altro, però se tu ti ricordi, l'avevamo più o meno detto, attenzione perché l'Egitto ha fatto la grande impresa, sì. Ma poi deve fare anche la piccola impresa. A me vengono in mente le parole di Rino Tommasi quando un italiano batte un avversario più forte. Lui dice sì, però vediamo la prossima partita. E spesso il tennista italiano questa partita, o comunque il tennista non particolarmente abituato, la prova del 9 la perde con un avversario più debole. E parlando anche con chi segue le squadre africane in maniera più costante di me, la situazione che ho avuto, e non entro nei dettagli, è che l'Egitto, dopo aver battuto i campioni del mondo, abbia smesso di pensare alla Confederations Cup, cioè i giocatori si siano lasciati, come dire, andare da un punto di vista mentale, mi fermo qui, nel senso che il giorno dopo non si sono allenati, il giorno dopo ancora la preparazione della partita sostanzialmente non l'hanno fatta, forse qualcuno gli ha anche messo in testa che gli americani avevano già pronti i biglietti per tornare a casa, e magari era anche vero. Però il problema della concentrazione nelle squadre africane l'avevamo affrontato la scorsa settimana, e certamente gli ascoltatori si ricordano che su questo noi eravamo andati molto cauti, cioè aspettiamo a parlare di miracolo africano finché non vedremo una squadra che vince le partite facili, cioè che vince le partite nelle quali è chiara favorita, e l'Egitto era chiaro favorito nei confronti degli americani, e infatti è crollato ed è naufragato pesantemente, a volte anche oltre il 3-0, perché ci sono state due o tre occasioni ulteriori per gli americani per fare bottino ancora più fino. Tra l'altro c'è un episodio nel quale un difensore egiziano respinge un pallone con un braccio sulla linea di porta, ed era molto simile a quello che poi ha generato il calcio di rigore trasformato dal Kakà contro il Brasile. Lì l'arbitro, anche perché la palla poi non è uscita ma l'azione è proseguita, ha detto di andare avanti, e nessuno poi ci ha ricamato sopra, soprattutto dopo le parole di Blatter, che aveva pure vietato gli schermi a bordo campo. Insomma, sono episodi laterali evidentemente, però ci sono stati. Sì, rimane abbastanza incredibile davvero come l'Italia abbia potuto finire fuori come una ramazza quando i concorrenti erano questi, e cioè non vincere il girone in cui c'è il Brasile, e magari perdere anche nettamente il Brasile ci può stare, però insomma finire fuori anche per differenza reti, avendo vinto una sola partita e perse due, di cui una con l'Egitto. L'Italia in realtà Gigi nemmeno per differenza reti è uscita perché ha segnato un gol in meno, perché la differenza reti era pari, uguale, quindi il paradosso è che il regolamento ha privilegiato non lo scontro diretto, che comunque l'Italia contro gli Stati Uniti aveva vinto, ma ha privilegiato prima la differenza reti ed era pari, poi il numero di gol segnati, e gli americani ne hanno fatti 4 e gli italiani 3, e dopo in caso di ulteriore parità ci sarebbe stato lo scontro diretto, però a questo passaggio noi non ci siamo arrivati. Ho l'impressione di sì, ho l'impressione anche che questo sia il tuo ultimo passaggio radiofonico prima di una congrua vacanza estiva, o sbaglio? La congrua vacanza estiva inizia venerdì in realtà, perché di lavorativi ci sono ancora oggi, domani e dopodomani, però nulla osta. Vediamo se riusciamo a incrociarci ancora, e se no ci diamo direttamente appuntamento a quando il calcio ricomincerà, insomma. A quando volete voi, grazie Gigi. Grazie. Buone vacanze a tutti. Grazie. Grazie a Fabio Tavelli. Chiudiamo quindi questo collegamento con Sky Sport 24. Tra poco abbiamo un intervallo di metà programma per aggiornare i mercati. Vi dicevo di Cannavaro. Basta con questa storia di vecchia, ha detto stamane al rientro in Italia, ormai è diventata una moda, se proprio do fastidio il mio posto è a disposizione, ma decide Lippi. Fenomeni in giro per il calcio italiano non ne vedo. E poi ha detto una cosa interessante, dice: non è vero che il gruppo non vuole Cassano, siamo tutti legati ad Antonio, io gli ho detto tante volte che ha già pagato per i suoi errori, deciderà Lippi, ma a Genova ha trovato tranquillità, spero faccia bene il prossimo anno e allora potrà venire in nazionale, ha le qualità per stare qui. Questo è l'intervento di Cannavaro. Sentirei ancora Lippi a chiudere questa ricca documentazione sull'ultima conferenza stampa di stagione del commissario tecnico, ascoltando che cosa ha detto a proposito di qualificazione. Per parlare un attimo della qualificazione, noi abbiamo fatto abbastanza bene, insomma non è che abbiamo fatto mai cose eccezionali, ma prima della partita con l'Irlanda avevamo vinto sempre ad eccezione di un pareggio in Bulgaria, insomma pareggiare in Bulgaria ci può anche stare, insomma non è che si vince sempre su tutti i campi. Poi dopo con l'Irlanda avete visto voi tutto quello che è successo, una partita giocata in 10 che nonostante abbiamo fatto discretamente, la pratica è ancora da risolvere. Non so io fino a che punto sarebbe stato giusto rinnovare subito, rifare subito una squadra di giovani e poi portarla avanti. L'idea era quella di farlo gratuitamente. E poi poco alla volta invece ha ripreso il sopravvento, vi dicevo, un certo arroccamento sulla vecchia guardia, che adesso per reazione ci sarà ancora meno, insomma, magari verrà accantonata forse in misura eccessiva rispetto a quello che sarebbe logico, difficile dirlo, se ne parlerà a partire dalla prossima stagione. Torniamo con i vostri messaggi e con i vostri interventi. Caro Garanzini, scrive Luca da Torino, ma non siamo tutti un po' stufi della spocchia e dell'arroganza di Lippi? Io non riesco proprio più a sentirlo parlare, ma perché nessuno gli fa notare quanto fastidio dia il suo comportamento. Insomma, Lippi può essere simpatico o meno, a me simpatico onestamente, credo di averlo anche già confessato in altre occasioni, non è mai stato, ma proprio mai, però non credo sia poi dalla simpatia che si giudica un commissario tecnico. La stessa scarsa simpatia l'ho sempre provata per Sacchi, eppure a parte il fatto che poi chi è più o meno simpatico a me credo sia assolutamente irrilevante, no? ai fini in assoluto, semplicemente certo non è uno che passi, ecco, non è uno che almeno dal mio punto di vista non è uno che susciti questa grande simpatia, ma da lì in avanti, fermo restando che per certi ruoli credo che una ragionevole dose di antipatia sia fisiologica da una parte e sia forse anche consigliabile dall'altra, no? per fare un pochino di filtro rispetto a tante cose, alle ingerenze, al nazional popolare, insomma, potremmo andare avanti per un po'. Marione in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è un piacere parlare con lei. Dica. Io volevo fare un parallelo, diciamo, da appassionato rosso-nero, fra, diciamo, siccome non siete molti di paralleli in questi giorni, fra le varie Italie delle varie epoche, io volevo fare un parallelo fra l'Italia del 2006 e il Milan che ha vinto la Champions nel 2007. Cioè, squadre che hanno trovato un'autostrada, il Milan l'ha trovata con un girone con l'AEK, l'Anderlecht, il Lille e poi il Celtic agli ottavi di finale, e l'Italia sappiamo tutti che l'ha trovata con l'Australia e l'Ucraina. Sì. Sono due squadre che hanno fondato tutto sulla compattezza del gruppo, il Milan soprattutto alla fine, e poi squadre che poi hanno trasmesso poco futuro, nel senso che comunque hanno dato il Milan facendo delle partite epocali, mi ricordo col Manchester e a Monaco col Bayern, mentre dell'Italia mi ricordo solamente i supplementari contro la Germania. Sono squadre che però hanno dato l'impressione di aver raschiato il barile, di non averne più, di avere proprio poco futuro e poca prospettiva nell'andare avanti, ecco. E però se quei due trionfi, se non ho capito male il suo intervento, da un lato appunto in quanto trionfi furono gli stra benvenuti, ma dall'altro fecero da tappo rinnovamento, questo è una buona analisi ed è un eccellente parallelo a parer mio, perché è così, perché non sempre, cioè, così come non tutte le disgrazie vengono per nuocere, non tutti i successi o i trionfi vengono poi per giovare a gioco lungo, rimangono fini a se stessi magari in qualche caso. Ivan dalla provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Allora, vorrei fare un intervento in merito alla nostra nazionale. Ecco, io non sarei così allarmato dal punto di vista comunque del gioco dell'Italia, perché a mio avviso l'Italia non è che abbia mai espresso questo grandissimo calcio, ecco. La stampa però è sempre stata brava ad esaltare le vittorie, anche se noi non abbiamo espresso un bel calcio, come dicevo prima. Ricordiamo la semifinale negli europei del 2000 contro l'Olanda, dove ci hanno praticamente massacrato. Noi abbiamo vinto i rigori e poi la stampa è stata brava a dire che noi abbiamo, a furor di popolo, diciamo, siamo riusciti appunto a arrivare in finale. Ecco, secondo me il discorso è un altro. Ogni nazionale, secondo me, aveva una comune dominante, nel senso che se parliamo degli anni 70 c'era la staffetta tra Mazzola e Rivera, negli anni 80 c'era Rossi, negli anni 90 Baggio. Ecco, nel 2006 secondo me la forza era la compattezza del gruppo. Compattezza del gruppo che aveva dato Lippi. Adesso questa compattezza è un modulo difensivo come pochi, tra l'altro. Esattamente. Anche perché c'erano l'innovazione di Pirlo, di Gattuso, che, diciamo, nel calcio europeo era un nuovo modulo, diciamo così. Ecco, però adesso io mi chiedo come mai il mister Lippi non ha tenuto in considerazione gente come Di Vaio, che è stato il vice cannoniere del campionato italiano, che diciamo ha rappresenta una buona difesa dal punto di vista calcistico, o anche lasciare a casa Cassano, diciamo, che alla fine sembra essersi ripreso dai capricci che ha fatto in passato. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, Ivan. Però se lei mi dice che l'unica vera forza dell'Italia di questo ciclo, di questo periodo, è stata la super difesa e diciamo il temperamento e la voglia di mostrare certe cose al mondo, ricordiamoci che periodo stava attraversando il calcio italiano allora dal punto di vista dell'immagine ma anche della sostanza, se lei dice che questi furono le ragioni per cui l'Italia riuscì a rimporsi, che ci azzecca Cassano e tantomeno Di Vaio, che a parer mio non ha classe internazionale. Sì, possiamo provare a fare una nazionale del campionato, però la cambieremo una volta ogni due settimane, no? Perché poi un giorno c'è Di Vaio in copertina, l'altro giorno c'è per l'appunto Cassano, poi l'altro giorno ancora c'è quell'altro, poi c'è quell'altro ancora. Non è così, secondo me, che si costruisce una nazionale. È come è riuscito a fare Lippi allora e non gli sta più molto riuscendo adesso. Roberto, provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Mi spiace di non averla chiamata in campionato perché un'altra vista polemica. Sì. A proposito della nazionale, io penso che tutto il sistema sia un po' troppo sovradimensionato, cioè siamo molto scarsi oggettivamente, siamo scarsi come nazionale, siamo scarsi a livelli di club e siamo scarsi come allenatori, per quanto possa valere un allenatore, o meglio si utilizza l'allenatore per coprire le magagne delle squadre. Nel senso, il Barcellona ha vinto la Champions League con Guardiola in panchina, la Spagna Bosque in panchina, che non mi sembra un fenomeno di allenatore. Del Bosque? Beh, insomma, sì. È uno che ha vinto qualche scudetto e una Coppa Campioni con Real Madrid, è proprio un deficiente, non è Del Bosque. Col suo permesso, non... No, ci mancherebbe. Il Brasile stesso ha Dunga in panchina, che non mi pare a livello di, per carità, un gran giocatore è stato, però come allenatore non mi sembra che sia. La verità è che abbiamo squadre molto scarse e quindi cerchiamo questi guru che poi alla fine secondo me sono anche controproducenti, perché magari brillano quei giocatori che potrebbero essere un pochino più spigliati rispetto ad altri in nome di chissà quale tattica, perché anche il Brasile l'altra sera alla fine ha fatto quello che una squadra di calcio dovrebbe fare, cioè correre. Noi non corriamo, ma non corriamo non solo a livello nazionale, anche a livello di squadre di club. Quando noi guardiamo le partite internazionali vediamo squadre italiane ferme, a differenza delle altre che invece corrono due volte quello che corrono i nostri. Due volte, gli altri corrono il doppio, le squadre italiane sono ferme. Ragazzi, ogni tanto io adoro la provincia, ma e la preferisco di gran lunga alla città, ma ogni tanto la provincia dà però di queste delusioni, se posso dire, no? Di luoghi comuni e di stereotipi proprio ad ogni costo e di allenatori che non qui e di fenomeni che non là, quando invece tutto è, secondo me, molto ma molto più semplice da spiegare, e cioè gli allenatori sono indubbiamente sovrastimati e sopravvalutati da non so quanti anni, perché sono i giocatori che fanno sono i grandi giocatori che fanno le grandi squadre e non i grandi allenatori. Gli allenatori semmai possono fare danni, ma da lì però a non riconoscere loro nemmeno un ruolo, nemmeno un significato, insomma, poi ne corre, per l'appunto si arriva all'anguilla della provincia, ecco. Fabio ha chiamato da Milano, buongiorno Gigi, breve di... come sempre. Intanto mi lasciate il numero del consulente di calcio di prima, che così chiedo a lui qualche allenatore magari meglio di Del Bosque, come... Sì, una Del Bosque è uno che nel suo piccolo mondo infelice ha giocato 10-15 anni con Real Madrid, ha fatto non so se 40 o 50 partite in nazionale, la mezzala, e poi quando gli hanno affidato il Real è stata forse la più bella stagione del Real degli ultimi 10 o 15 anni a questa parte, però a sentire il suo predecessore era poco più di un minus abens. Guarda che anche in provincia arrivano i giornali, comunque basta documentare. Sì, sì, sì, però no, le ripeto, io sono per la provincia e non sono per la città, e quindi a maggior ragione mi dispiace, no? Perché c'è quell'aria da non so, non saprei nemmeno definirla, ma che quel genere di interventi e di riflessioni comunque arriva solo dalla provincia, non so perché. Dica Fabio. Da provincia, è vero. Come c'hai? Vado breve. Uno è giovane e gioca poco, spero di diventare anziano. Divento anziano, sono anziano. Io non riesco più a capire qual è l'età giusta, forse 3-4 anni per giocare sempre, no? Prima riflessione. La seconda riflessione, secondo me, quando sentivo Fabio Tavelli, grandissimo anche lui, diceva eccezionale, magari forse vittoria del Sudan con Brasile. Gigi, tu che sei un espertissimo, stiamo parlando della Coppa dei Prosciutti, adesso poi dopo tu mi smentisci, mi dici, stiamo parlando di un Fabio Bolognesi, io 39 anni, che aspetto 4 anni per vedermi i mondiali e 2 per vedere gli europei. Questo torneo, soprattutto noi italiani, non vedeva l'ora di andare in spiaggia, diciamo la verità. Grazie. No, non credo. Credo che questo è quasi provinciale, secondo me. Poteva arrivare nel contado anche questo intervento qua, e continuo a dirlo con grande ammirazione, non certamente con spirito cittadino. Non è assolutamente vero, perché non è così. Che poi questa sia una manifestazione di non enorme prestigio, ci siamo, fin lì sì, ma che non l'abbiano giocato volentieri non è assolutamente vero, perché comunque è una ribalta mondiale, a parte il fatto che quando ti trovi davanti il Brasile, o la Germania, o l'Inghilterra, o l'Argentina, in qualsiasi contesto tu sia, che sia un torneo estivo o che sia la finale di Coppa del Mondo, gli stimoli sono gli stessi, cioè, c'è poco da fare. Allora, prima di arrivare al Sembraieri, mi informa Flavio Suadi che quel deficiente di Del Bosque, che tra l'altro è sempre stato un mio idolo, perché mi piaceva già da giocatore la mezzala destra, anche se era un pochino lento, ma poi mi è sempre piaciuta la sua civiltà, la sua educazione, la sua tranquillità, il suo vivere sotto traccia, il suo non fare fenomeno. Per l'appunto ha giocato 441 partite con la maglia Real Madrid, ha giocato 18 partite in nazionale spagnola, ha vinto da giocatore 5 scudetti e 4 coppe del re con Real, e da allenatore 2 lighe, cioè 2 campionati spagnoli, 2 Champions League, ecco 2 non una, un Intercontinentale, 2 UEFA, e insomma un UEFA e qualcos'altro ancora, giusto per dire che cosa ci farà quell'imbecille sulla panchina della Spagna, no? 14, 47 e 32, il ripasso di storia, come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 giugno 1982, terzo pareggio in 3 gare per l'Italia nel girone eliminatorio dei mondiali spagnoli. A Vigo contro il Camerun finisce 1-1. Gli azzurri passano al 60° con Graziani, ma vengono raggiunti dopo un solo minuto da Mbida. Pur non avendo vinto nemmeno una gara, la nazionale di Berzot, subissata dalle critiche, passa comunque alla fase successiva. Si sposterà a Barcellona per affrontare un mini girone proibitivo con Brasile e Argentina. Brasile e Argentina, scrive Brera su Repubblica, fanno spavento agli uomini onesti, ma se uomini saranno e non pecore matte, sapranno almeno comportarsi in modo da salvare la faccia. Nel prosieguo del percorso, Conti, Tardelli, Rossi e gli altri non si limiteranno a salvare la faccia, ma spiazzeranno il mondo trasformandosi nella squadra più forte. Italia-Camerun, il terzo di quei 3 pareggi da cui credo nessuno al mondo, certamente nemmeno lo stesso Berzot, avrebbe mai immaginato che l'Italia avrebbe spiccato il volo per quelle ultime 4 partite dell'82. Tocca ad Antonello, dalla provincia di Venezia. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione, e volevo anche complimentarmi per il libro che ho letto già da qualche anno fa su Berzot, Il romanzo del vecchio, scritto davvero molto bene. Grazie. Ma l'intervento che volevo fare era appunto sulla nazionale, sul disastro della nazionale, come lei ha chiamato, no? E secondo me i colpevoli principali non sono i giocatori, anche se hanno le loro colpe, ma sono la federazione e poi l'allenatore. La federazione, perché dopo il mondiale 2006 non ha avuto il coraggio di fare una scelta un programma di lungo termine per arrivare ai mondiali successivi, ma prima chiamato Donadoni per poi scaricarlo subito dopo, e poi Lippi che mi sembra un po' in confusione, perché prima, come dire, va avanti con un modulo 4-3-3 che non è adatto a noi, poi a metà partita col Brasile cambia e fa il 4-4-2, fa entrare gli Iaquinta con la febbre e poi lo toglie. Non lo so, mi sembra che sia un po', abbia le idee molto confuse. Sì, no, non il Lippi degli ultimi tempi non è certamente, non è certamente immune da critiche, comunque da possibili critiche, tutte quelle che ha rilevato lei. Per esempio ci stanno, io ne faccio un'altra, no, non riesco sinceramente a capire il perché del, cioè perché aver schierato nell'ultima amichevole prima questo torneo, che come giustamente diceva prima un ascoltatore non è un mondiale, cioè perché aver fatto una marcia d'avvicinamento con amichevoli e in una di queste amichevoli schierando un sacco di facce nuove che se la sono cavata in media da bene a molto bene, e poi arrivare in Sudafrica e una settimana dopo all'esordio, perché era, credo esattamente nove giorni dopo l'amichevole di Pisa, l'esordio, non c'è più traccia di nessuno di quelli, anzi molti li ha addirittura lasciati a casa, non li ha messi nell'elenco dei 23. E quindi in pratica, non so come dire, ha dato una sensazione, ha creato delle attese che poi non ha mantenuto. Questo secondo me è autolesionismo come atteggiamento. Poi certamente ci sarà una logica nella scelta che ha fatto, però sfugge, è difficile da comprendere. Massimiliano in linea da Rimini, buongiorno. Ah, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo parlare sempre in riguardo della nazionale. Sì. Direi questo, Lippi sinceramente anche a me non è molto simpatico, però credo che insomma, per quanto riguarda esperienza e competenza, non è che con l'antipatia gli possiamo cavare anche queste cose qui. È vero che diceva quello che diceva lei, che ha portato delle facce nuove durante magari anche le eliminatorie, però poi alla fine si è avvalso sempre dei giocatori che gli hanno dato il mondiale. Però credo che alla fine noi siamo italiani, bisogna che facciamo gli italiani, nel senso che la nostra forza è sempre stata quella lì. Difesa roccata, uno davanti con un altro che gli gira intorno, e quando riusciamo ad aiutarlo lo aiutiamo e buona lì. La nostra forza penso che è sempre stata quella, e alla fine Lippi ai mondiali questo atteggiamento prevarrà su tutto il resto. Ha fatto degli esperimenti, si sperava sì. che facesse degli esperimenti anche per quanto riguarda qualche giocatore. Io da ex giocatore di discreto livello speravo che il mio ex compagno di squadra Brighi lo portasse, ma purtroppo Matteo è rimasto a casa. Tra Brighi, D'Agostino, io pensavo che Difatti avrebbe fatto meglio a portarli, indubbiamente. Cioè, lui poi ha spiegato proprio che Gattuso lo ha portato per fare gruppo. Vabbè, può essere una cosa, portalo aggregalo, portalo da capitano a un giocatore se vuoi, però Gattuso non mi sembrava ancora in condizione, no, di giocare un torneo, e tantomeno insomma non era lui. E uno come Gattuso, se non è al 100% della forza fisica, ma cosa significa? Perché fargli fare oltretutto una brutta figura, insomma, non, a fine stagione non è nemmeno un piacere per mandarlo in forma, no? Non, sono state parecchie le cose che non si sono granché capite. Chiudiamo la puntata di oggi, come sempre in questo periodo, con un collegamento con il Sudafrica. Sigla. Confederation Cup, a un anno dal Mondiale. Un anno dal Mondiale, troviamo in Sudafrica Stefano Piazza. Buongiorno Stefano. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. So che sei reduce da un ride in direzione di Città del Capo per, immagino, studiare in prospettiva gli impianti e l'accoglienza possibile per un anno. Raccontaci. Sì, ho approfittato di questa pausa tra la fine della prima fase e l'inizio delle semifinali per dare un'occhiata a Città del Capo, che sarà una città chiave nel prossimo mondiale, anche se non è stata toccata da questa Confederations Cup. Qui si giocheranno 7 partite, tra cui una semifinale, nel nuovo stadio di Greenpoint, che sarà l'Africa Renaissance Stadium, lo stadio della rinascita africana come l'hanno un po' pomposamente ribattezzato. Sì. Sarà uno stadio molto avveniristico, a quanto pare splendido. Qui c'è un proiettore che permette anche di assistere allo stato dei lavori, di vedere filmati e quant'altro. Questo ovviamente fa poco testo, nel senso che come tutto questo genere di visite è un po' un'autopropaganda. Insomma. Beh, certo. I lavori sembrano avanti. Io non sono un tecnico da questo punto di vista, non sono in grado di giudicare, ma diciamo che hanno promesso la consegna per la fine di quest'anno. Sembra tutto a posto. Diciamo che lo stadio di Città del Capo è quello più controverso finora, nel senso che di tutti quelli che hanno ristrutturato o costruito ex novo è quello che ha avuto più intoppi tra scioperi degli operai, cause in tribunale per tangenti, polemiche ambientaliste e quant'altro. Cioè, anche Sudafrica è paese, insomma. No, intendo dire che stai raccontandoci cose che appartengono al nostro repertorio classico e quindi un tutto il mondo e paese anche per il Sudafrica è inevitabile, mi pare. Sì, è per creare un po' di empatia con i sudafricani, insomma, cerchiamo di citare qualcosa che sia molto noto e caro. Certo. Quindi quello... Però, insomma, lo stadio alla fine si fa... No, dicevo, si fa, i lavori sembrano molto ben avviati, il dubbio eventualmente è sempre per il dopo, nel senso che poi difficilmente riusciranno a riempire 68.000 posti o 55.000, insomma alcuni saranno modulari e quindi li estrarranno, anche se da capire come, però difficilmente per il calcio qui riusciranno a riempire, diciamo, anche 55.000 posti. Lo stadio che sorgeva nella stessa area che hanno demolito per ricostruire per i mondiali era da 18.000 e non sempre era pieno, ecco. Questo eventualmente è il dubbio per il dopo. Ma Stefano, anche la cattedrale nel deserto è un altro classico, no? che dalle nostre parti funziona, l'abbiamo vista, non so, a Bari per esempio, quella del 90, e evidentemente è un modello che si ripete anche in altri paesi del mondo. Grazie a Stefano Piazza, chiudiamo questo collegamento, sigla. Confederation Cup, a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52%, fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo, fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan. Grazie a Filippo Reggi in regia, Flavio Suardi in redazione, grazie a voi che ci avete seguito, vi lascio al Giornale Radio.